Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Il rimprovero che Dio rivolge alla Chiesa di Efeso può essere valido per tutti noi credenti. Come figli di Dio abbiamo forse iniziato bene la nuova vita, abbiamo sopportato tante cose per amor di Dio, il nostro zelo è stato di esempio poi. Le cose sono cambiate, il nostro primo amore è venuto meno. Qual è la causa, qual è il rimedio? Dio stesso ci dà la risposta. La causa è che ci siamo dimenticati di ciò che eravamo. Il rimedio è ricordarsi del passato e fare un confronto con quello che siamo ora. Perché il nostro amore verso Dio non venga meno, esaminiamo nella Scrittura ciò che eravamo prima della conversione e prendiamo coscienza di ciò che non siamo più in modo da compiere le opere che Dio ha preparato. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e l'esperienza... Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo, che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona. Qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi. In questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Romani 5, 1-10. L'Apostolo Paolo inizia la sua lettera ai Romani dichiarando e dimostrando che tutti gli uomini sono peccatori. In seguito dichiara che la salvezza è offerta per grazia a tutti gli uomini e per dimostrarlo prende ad esempio Abramo e Davide, due uomini che avrebbero anche potuto meritare dei favori alla presenza di Dio, ma che hanno ottenuto il perdono dei loro peccati solo per grazia. Al capitolo 5 della lettera, il brano che abbiamo citato, Paolo spiega ai Romani i risultati di essere stati giustificati per fede. E ricorda ai lettori il loro passato, cioè com'erano prima di conoscere l'Evangelo e di diventare figli di Dio. Poiché chi ha posto fede in Cristo si può identificare pienamente con i destinatari della lettera, se siamo figli di Dio consideriamo qual era la nostra condotta e la nostra situazione nei confronti di Dio prima del ravvedimento. 1. Eravamo senza forza. È evidente che Paolo non si riferisce alla forza fisica perché l'uomo la possiede dalla nascita. L'apostolo si riferisce alla forza o capacità di compiere la volontà di Dio. Sì, Dio non ci chiede nulla se prima non ci ha dato anche la capacità di eseguire la sua volontà. Non vi è comandamento cui non possiamo obbedire perché egli ci ha dato uno spirito di forza, non di debolezza. 2 Timoteo 1:7. I suoi comandamenti non sono gravosi perché trovano riscontro nella nostra vera umanità. Se non siamo in grado di compiere qualcosa che egli ci ha richiesto, dobbiamo dubitare di aver compreso bene la volontà di Dio. Possiamo aver intrapreso un'opera, un sentiero, una relazione o un ideale biblico che pertanto non corrispondono al volere di Dio. Quando pecchiamo dovremmo umiliarci davanti a Dio, non solo perché disonoriamo il suo nome, ma anche perché avevamo la possibilità di non cadere e non l'abbiamo voluto. È inutile, come alcuni fanno, incolpare il diavolo o il prossimo per i nostri errori. Se siamo saggi non chiederemo a Dio la forza di compiere la sua volontà, perché con questa preghiera metteremo in dubbio la promessa di Dio, ma chiederemo di realizzare ciò che ci è stato dato e realizzeremo la forza di Dio. 2. Eravamo ancora peccatori. Con tale affermazione Paolo non sta asserendo che non pecchiamo più, che abbiamo realizzato la perfezione. Esprime bensì un concetto giuridico. Quando abbiamo creduto che il sacrificio di Cristo sia sufficiente per riconciliarci con Dio, abbiamo ottenuto il perdono di tutti i peccati e quindi siamo stati resi e giudicati giusti. Non siamo più giuridicamente colpevoli. Dal giorno che abbiamo posto fede in Gesù Cristo, il peccato non deve essere occasione di scoraggiamento perché Cristo è morto non solo per i peccati passati, ma anche per quelli presenti e futuri. Per questo motivo il peccato non deve neanche essere più un problema, perché una volta confessatolo possiamo rialzarci e dire: grazie Signore Gesù perché sono stato reso santo. Se rimuginiamo sul peccato e ci addoloriamo perché non avremmo voluto peccare, ciò è dovuto all'orgoglio che ci tormenta. Se crediamo di essere stati resi giusti, diventa granitica la certezza di appartenere per sempre a Gesù. La certezza della salvezza riposa non su quello che noi facciamo, ma sull'opera di Cristo, che ha un valore eterno. Se ricordiamo questo aspetto, saremo sempre riconoscenti e bandiremo una volta per tutte lo scoraggiamento. 3. Eravamo nemici. L'uomo che non ha realizzato la nuova nascita è in inimicizia con Dio. Romani 8:6-8. La nuova nascita ci ha trasportati da una situazione di conflitto con Dio ad un rapporto di figliolanza, chiamandolo Abba. Questa relazione dovrebbe cambiare totalmente la nostra vita, perché ora abbiamo un padre che si cura di noi. Proprio per questo la nostra attenzione dovrebbe dedicarsi in modo particolare al regno di Dio e non tanto alle cose terrene. Inoltre, con un padre amorevole, ogni situazione della vita dobbiamo considerarla a nostro vantaggio e utilità. Che bello vivere con la consapevolezza di essere osservati e curati da un Dio che ci ama. Proprio per questo motivo possiamo far nostro l'inno di vittoria di Paolo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo. Gesù è colui che è morto, e ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio, e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 4. Romani 6:16-20. Eravamo schiavi e servi del peccato. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa, e, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. L'uomo che non ha riconosciuto Gesù Cristo come il suo Signore è schiavo del peccato, e come tale serve il peccato. Egli pensa di essere libero di fronte alle tentazioni, ma non può che obbedirgli. Anche noi ci trovavamo ad essere tentati, ma Gesù ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. Noi siamo stati liberati per essere liberi di rifiutare la tentazione e di scegliere il bene anziché il male. Nella sua libertà il cristiano decide ogni giorno di essere schiavo di Cristo. Un santo trova che il peccato è in lui. Questo è il suo lamento. Un santo non è libero dal peccato. Questo è il suo tormento. Un santo trova che l'anima sua non è nel peccato. Questo è la sua consolazione. Un santo non è libero di peccare. Questa è la sua benedizione. Un santo è libero di non peccare. Questa è la sua gloria. Come disse Paolo, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri. Proprio perché il cristiano è libero ed ha una natura divina, egli realizza un conflitto interiore tra la santità e il peccato. Questo conflitto interiore tra lo spirito e la carne denota che apparteniamo a Cristo. 5. 1 Corinzi 12, 2 Eravamo pagani. Voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Secondo la scrittura, i pagani non sono coloro che vivono nella sperduta Africa, ma chi ha una condotta naturale. Sono coloro che sanno ricambiare il bene a chi gliene fa, che restituiscono l'amore ricevuto, che pregano tanto per pregare. Anche noi eravamo in grado di fare quello che fanno tutti. Ma ora, mediante lo Spirito Santo, siamo in grado di amare ciò che non è amabile, di fare del bene e di pregare per chi ci perseguita e ci maltratta. Questo ci rende dei cristiani felici, vittoriosi e una luce nel mondo. 6. Romani 7, 5 a 6. Eravamo nella carne. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto alla morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Cosa significa l'espressione «eravamo nella carne»? Secondo Romani 8, 8-11, l'uomo che non ha realizzato la nuova nascita è nella carne, perché non ha ricevuto lo Spirito Santo. Mediante un atto di fede, siamo diventati figli di Dio per opera dello Spirito Santo, che ci fa partecipi della natura divina. Da quel momento siamo nello Spirito. Che vantaggi abbiamo ad essere nello Spirito, e non più nella carne? Oltre alla certezza di appartenere a Dio, abbiamo la facoltà di comprendere le Scritture. 1 Corinzi 2, 11-16. Non dobbiamo mai dimenticare che non è una capacità umana la comprensione della parola di Dio. Comprendiamo il pensiero di Dio non perché studiamo e meditiamo la Bibbia, ma perché lo Spirito rivela il senso delle cose di Dio al nostro spirito. Inoltre, senza lo Spirito Santo eravamo esposti senza difese alle passioni peccaminose. Se dimentichiamo quello che eravamo, non possiamo apprezzare pienamente il dono dello Spirito che abita in noi. 7. 1 Cor 6, 9-11. Eravamo senza morale. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete. Né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Quando arriviamo a conoscere Gesù Cristo, avevamo tutti una condotta immorale. Forse non tutti siamo stati dei fornicatori, adulteri o rapinatori, ma certamente abbiamo dovuto abbandonare alcuni comportamenti che erano peccaminosi davanti alla santità di Dio. Se dopo aver confessato la nostra fede in Gesù non vi è stato nessun cambiamento nella nostra condotta, la nostra è una fede teorica. Quando abbiamo considerato la croce di Cristo, non abbiamo solo visto il nostro orgoglio spezzarsi e le nostre colpe cancellate, ma il nostro amore si è acceso, la nostra speranza si è rinvigorita, il nostro carattere è stato trasformato, la sincerità della nostra fede è dimostrata da un cammino adeguato all'etica di Dio, quell'etica che non è né morbosa né eccessivamente introspettiva. Ringraziamo Dio perché ha installato la sua morale nella nostra mente e nel nostro cuore. 8. Efesini 2, 1-3. Eravamo figli d'ira. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Siamo inclini a giudicare negativamente chi non è figlio di Dio. Eppure anche noi prima di conoscere Gesù tenevamo la stessa condotta. Seguivamo passivamente l'opinione dei più. Ci eravamo abbandonati all'andazzo di questo mondo, senza chiederci se fosse giusto o meno. vivevamo nel peccato, ci nutrivamo del peccato, ci abbandonavamo alle attrazioni e seduzioni delle nostre inclinazioni malvagie. Eravamo delle creature che non meritavano altro se non di essere puniti e condannati. L'ira di Dio avrebbe potuto colpirci in qualsiasi momento. Eppure Dio, nella sua misericordia, non ci ha trattati come meritavamo. Anzi, da figli di ira ci ha fatto diventare suoi figli. Poteva Dio fare di più? 9. Efesini 2, 11-12. Eravamo senza Dio, senza Cristo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Spesso dimentichiamo il privilegio che abbiamo ottenuto. Ci siamo abituati ormai a rivolgerci a Dio e a confidare in Lui. Eppure vi era un tempo in cui vivevamo ignari della verità. Avevamo forse una forma religiosa. La nostra vita era orientata a soddisfare le nostre aspettative, tutto ruotava intorno alla nostra persona. Eravamo esclusi da ogni promessa divina, non ci aspettava un futuro glorioso. Tutto era tenebre e incerto, la nostra anima era lacerata da implacabili dubbi. Gesù Cristo non era il nostro Salvatore. Eravamo disperati anche quando avevamo il sorriso sulle labbra. A chi ci rivolgevamo in caso di dubbi e problemi? Dove trovavamo la forza per andare avanti? Erano le mani pietose di Dio a sostenerci. Che amore! 10. Efesini 5, 8. Eravamo tenebre. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Questa espressione è più di un'espressione simbolica, è una realtà. Prima di conoscere Gesù Cristo, avevamo una condotta che non produceva alcun beneficio al prossimo. Eravamo affamati della vanità umana. Il nostro parlare era vuoto, il nostro agire era improntato ad un tornaconto. Le persone che vivevano intorno a noi non ricevevano nessun esempio positivo, alcun benessere. Eravamo come gli altri, buio nel buio, tenebre nelle tenebre. Che tristezza! Essere nulla era il nostro peggior dramma. Trascorrevamo la nostra esistenza senza recare alcun beneficio a questo mondo. Ora, con l'amore che ci è stato dato da Dio, possiamo essere il sale della terra per rendere piacevole la vita ai diseredati, una luce per chi cerca Dio, un esempio della potenza di Dio, essere utili ad un mondo povero e tenebroso. 11.1 Pietro 1.14. Eravamo nell'ignoranza. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. L'ignoranza ha una caratteristica. Chi la possiede non sa di averla. Solo quando si è diventati figli di Dio ci siamo resi conto quanta ignoranza abitava in noi. Vivevamo senza intendimento, senza discernimento. Era per noi sufficiente fare quello che facevano tutti. Prendevamo delle decisioni sia religiose che secolari, con una incoscienza che ora ci fa rabbrividire. Se non abbiamo commesso degli errori fatali, è stata la misericordia di Dio che ci ha accompagnati e protetti. Che riconoscenza inalterata abita nel mio cuore. E così anche per te? 12. 1 Pietro 2:25. Eravamo erranti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. È brutto vivere senza una meta. È spaventoso non avere una guida sicura quando ci si trova in un paese pieno di pericoli. Eppure l'ignoranza unita all'incoscienza dei pericoli ci faceva camminare in questo mondo serenamente. Transitavamo in un campo minato e non lo sapevamo. Ci aggrappavamo ad ogni illusione pur di ottenere un fugace conforto. Seguivamo supinamente delle guide cieche. Eravamo erranti senza meta e senza patria, senza pastore. Che terribile situazione! Ma ora la luce di Cristo illumina il nostro sentiero. Sappiamo perché esistiamo, dove andiamo. Con la mente di Cristo abbiamo una risposta ai grandi interrogativi della vita. Apprezziamo la vita e la morte, la gioia e il dolore. Non siamo dei vagabondi perché il nostro cammino terrestre ci porta verso la casa dalle molte stanze. 13. Tito 3. 3. Eravamo una feccia. perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ho considerato per ultimo questo versetto perché Paolo ha tracciato il percorso della nostra vita prima della conversione in modo magistrale. In poche parole ha messo in luce il percorso di ogni essere umano senza Dio. Eravamo insensati, vivevamo da stupidi, da idioti. Eravamo ribelli, reagivamo negativamente verso tutto ciò che non ci andava. Eravamo schiavi, soggetti ad ogni seduzione. Si viveva nella cattiveria, ogni nostra azione non era motivata dall'amore. Si viveva nell'invidia, odiavamo le gioie degli altri. Eravamo odiosi, il nostro comportamento era tremendamente sgradevole. Ci odiavamo a vicenda. Questo era il nostro comportamento quotidiano. Vivevamo in un costante disordine emozionale e guidati da una coscienza completamente ottenebrata dal peccato. Anche Paolo, benché fosse un religioso serio e convinto, comprese che il suo comportamento era simile a quello degli altri. Moralista, religioso ma perduto. Tutto questo ci porta ad avere un acuto senso di vergogna per il peccato commesso, unito ad un profondo senso di riconoscenza verso Dio tramite Gesù Cristo. Ora possiamo essere cibo per gli affamati, rifugio ai senza tetto, aiuto agli indigenti, amici per chi è solo, conforto per chi è triste. Se sei un figlio di Dio, dopo queste riflessioni forse ti sentirai mancante perché non hai realizzato pienamente il tuo obiettivo di essere cristiano. L'importante però è che tu non sia più quello che eri. Continuerai certamente a commettere errori, ma una cosa è cadere saltuariamente nell'errore. Un'altra è conviverci. L'importante è che il tuo carattere sia migliorato, che il tuo comportamento sia gradito a Dio, le convinzioni che provengono da Dio siano maturate, il desiderio della santità sia aumentato, che tu abbia coltivato i doni dello Spirito, la fede, la speranza e l'amore. Questo fa la differenza tra quello che eri e quello che sei. Ottobre 1980, Ellero,